Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1863, strage a Pietrarsa. In quella che è stata la più grande fabbrica d'Italia, la protesta è finita nel sangue e i 7 morti, i 20 feriti fotografano tragicamente il difficile rapporto tra il governo e un sud per il quale è stata da poco approvata una durissima legge d'emergenza. L'opificio di Pietrarsa, nel napoletano, nel giugno del 60 contava 1050 addetti, 34.000 metri quadri, macchinari avanzati, un'officina per locomotiva con due grandi gru a bandiere, un'officina di artiglieria, addirittura una scuola di ingegneria meccanica. Vi si producevano tra l'altro locomotive, rotaie, cuscinetti, spianatrici, fucine, maglie a vapore per 5.400 tonnellate di acciaio l'anno. La crisi che è seguita all'unificazione ha spinto il governo a scegliere di favorire l'Ansaldo, azienda di San Pier d'Arena fondata da Cavour. La relazione presentata dall'incaricato del governo Sebastiano Grandis su Pietrarsa è stata molto negativa. Costo eccessivo dei materiali, eccedenza di personale, lontananza dalla stazione di Napoli. Ne consigliava la cessione, se non addirittura la demolizione. I sospetti su questa relazione restano. L'Ansaldo, che fino a prima della guerra era in crisi, è passata da 500 a 1000 operai, mentre Pietrarsa è stata privatizzata. La ditta Bozza, che ne ha assunto il controllo con un contratto d'affitto, è partita con i licenziamenti e gli operai hanno protestato occupando la fabbrica. Ecco che cosa è successo. Il 6 agosto l'esercito è intervenuto sparando contro gli operai. C'è chi parla di 4 vittime, chi di 7. I feriti sono stati 20. Fatti inaccettabili che in queste zone vengono collegati al presunto pregiudizio antimeridionale dei torinesi. Il gran capo dell'Ansaldo e direttore della Banca d'Italia Carlo Bombrini, questa è la voce che gira, si sarebbe fatto sfuggire un non dovranno mai essere più in grado di intraprendere relativo alla gente del sud, la cui rabbia sta montando progressivamente e in maniera pericolosa. Simone Spezia, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.